a tutti voi che avete visto Il calcio che conta quando era romantico. Noi parliamo di Marco Van Basten. Solo i geni possono permettersi di sbagliare. Marco Van Basten che cos'era? Era come Amleto Punk. Marco Van Basten poteva permettersi di sbagliare. E quello che ha fatto nel 1992 di fronte a un grande, grosso Peter Schmeichel, più un wrestler, più Hulk Hogan, Andre the Giant, che un semplice portiere, che un semplice estremo difensore, Marco Van Basten sbaglia dagli 11 metri il calcio di rigore che avrebbe potuto portare la nazionale olandese direttamente in paradiso, nel regno metafisico iperuranico del teatro di prosa. Ma la vita è veramente un paradosso, anzi è solo un paradosso, perché passi la tua intera esistenza a mettere calci di rigore, ma passi alla storia per l'unico calcio di rigore sbagliato nella tua carriera. Un po' come successe a Getúlio Vargas, il dittatore brasiliano, che tirava calci di rigore così alla cazzo di cane. Ma non è sempre successo così. Amleto Punk, nel 1988 c'era ancora eretto il muro di Berlino, qua ne siamo affezionati al muro di Berlino, Radio Onda Rossa, c'era ancora la cortina di ferro. A un certo punto, nella finale tra Olanda e Unione Sovietica, la fortissima Unione Sovietica che aveva in porta Rinat Dasaev, a un certo punto nell'Olanda, chi si ricorda che a memoria storica scatta un anonimo terzino sinistro di nome Van Tigelen e inizia a fare un monologo alla Italo Svevo: devo farcela, devo vincere questa partita, devo farlo per mio padre e mia madre che mi hanno fatto crescere bello, alto, sano, forte, moderatamente rincoglionito, ma certo meno del figlio di Bossi. Devo farlo perché voglio essere invitato da Caputi e Zazzaroni e quelli che il calcio a parlare di calciopoli come se fosse stato un incidente della storia. Sì, voglio essere invitato da Flavio Briatore nel suo residence a Malin di prendere suo figlio Nathan Falco, affogarlo, fargli battere quella testolina di cazzo sopra uno yacht e dire a Elisabetta Gregoraci di pagare le tasse. Sì, voglio farcela, voglio vincere questa partita per i miei genitori che mi hanno fatto crescere come Oliver Hutton e come Mark Landers con il Kinder fetta al latte. E qua ci possiamo mettere dentro anche la Monsanto. Devo farcela, devo vincere per questa partita, devo farlo perché sono stato fotografato da Fabrizio Corona sulla Togliatti mentre lo prendo in saccoccia da qualche travello sifilitico al terzo stadio. Io gli ho dato un sacco di soldi a Fabrizio Corona perché le foto non escano, ma le foto usciranno comunque su un giornale di Urbano Cairo. E così io, oltre a fare il calciatore, farò anche l'attore e un passerotto giallo mi parlerà sulla spalla. Io venderò un sacco di acqua a Oliveto come Del Piero e parlerò con questo passerotto giallo sulla spalla senza per forza aver preso l'LSD, aver ascoltato i Pink Floyd o essere San Francesco. Devo farcela, devo vincere questa partita. E continua il monologo interiore quando dall'altra parte ci sono tutte le nazionali che c'erano, anche quelle che non sono state, anche quelle che sono state eliminate, tipo l'Italia. C'erano tutti gli altri giocatori dell'Olanda: Overmars, Blind, Van Basten, Rijkaard, che gli hanno fatto: oh, crossa, coglione. E allora lui esce dal personaggio, esce dal personaggio col metodo Milingo, col metodo Milingo, e crossa, e c'era Marco Van Basten che era completamente marcato dall'intera armata rossa. C'era anche Toto Cutugno e Van Basten fa una cosa incredibile: colpisce al volo e la palla va sotto l'incrocio dove il fortissimo portiere Rinat Dasaev, non Pagliuca, non Pazzagli, non Pagotto, Rinat Dasaev, non ci sarebbe mai potuto arrivare. Ehi, era il 1988, adesso siamo nel 2017, questa è storia, biologia, estimo, trattamento, testi. Rinat Dasaev è ancora a Düsseldorf che cerca la palla. E questa è storia, biologia, estimo, trattamento, testi. Il giorno dopo la moglie di Dasaev chiese il divorzio e 3 giorni dopo si risposò a Las Vegas, anzi venne qui a San Lorenzo a risposarsi, quando San Lorenzo era tipo, voleva l'indipendenza come la Catalogna. Si risposò, e sapete come fa ancora adesso, di cognome, l'ex moglie di Rinat Dasaev? Fa Van Basten. The money is a football, el balloon, le cool danè.